Gino Franco, Innovation Manager, Mizzer Automazione. Qui oggi a Firenze abbiamo parlato di mobilità sostenibile nelle città, lei ha illustrato quelle che sono tante innovazioni tecnologiche che possono essere introdotte per migliorare la vivibilità urbana, soprattutto la viabilità, illuminazione intelligente, sistemi di informazione che possono arrivare direttamente nei veicoli in transito, un modo per migliorare anche la vita nelle città. Però vorrei capire dove realmente questo già è in atto, in quali città italiane eventualmente. Queste soluzioni sono già disponibili o sono in fase di realizzazione in diverse città, sia in Italia che in Europa che nel mondo. La vera innovazione ora sta nello sfruttare le tecnologie e la connettività disponibile per integrarle, per metterle insieme, perché, non so, ad esempio Torino è stata leader già da molti anni, ha realizzato applicazioni ITS. E abbiamo visto adesso Firenze ne sta attivando una nuova integrazione molto importante, abbiamo visto la regione Emilia-Romagna eccetera. La chiave è proprio integrare, perché mentre qualche anno fa noi realizzavamo sistemi per il controllo del traffico urbano per esempio, o sistema di controllo del traffico autostradale, o il sistema per la gestione del trasporto pubblico, poi separatamente l'integrazione dei due per dare la priorità al mezzo pubblico, agli incroci. Adesso invece riusciamo a mettere tutto insieme e dare al gestore dell'infrastruttura, della rete, la possibilità di avere in modo omogeneo e in sinergia far lavorare tutti i sistemi per l'unico obiettivo, e quindi quello di migliorare il comfort e l'efficienza del trasporto per il cittadino. Ecco, il cittadino, che risposta ha dato? Vedo che questi sistemi comunque possono essere fruiti sostanzialmente con l'utilizzo di cellulari, PC, tablet, quindi con una buona 70-80% della popolazione, è un dato eccessivo? Sì, il cittadino in realtà subisce il controllo del traffico comunque, perché a sua insaputa il tempo di verde, di rosso il semaforo viene calcolato in base alla lunghezza della coda, al tempo necessario per smaltirla, eccetera. Riceve l'informazione del tempo di attesa alla fermata del trasporto pubblico e così via. Attraverso l'integrazione però il cittadino può essere più informato, cioè può conoscere in anticipo, può prevedere quanto impiegherà a completare il viaggio, e può sapere in anticipo se ci sono dei problemi sul viaggio che sta intraprendendo, sulla scelta che ha fatto per raggiungere la destinazione. Può essere informato, può scegliere quindi con anticipo se cambiare modalità per oggi perché c'è un lavoro in corso o perché c'è un incidente, e conoscendo attraverso questi sistemi quando sarà in grado di raggiungere la propria destinazione, che poi l'informazione che a tutti noi interessa conoscere in anticipo. Secondo lei le amministrazioni locali quanto sono pronte nel ricevere queste nuove tecnologie, questi nuovi sistemi di mobilità? Lo sono, sono adesso attraverso questi convegni e questi strumenti anche di promozione sono sempre di più le amministrazioni pubbliche che sono al corrente e stanno prendendo delle misure o stanno investendo per realizzare questi sistemi. La difficoltà non è tanto tecnologica ma è più organizzativa, perché le diverse infrastrutture sono spesso gestite da enti diversi, quindi è necessario creare anche una collaborazione, un'integrazione a livello gestionale e operativo. Delle sinergie anche tra le singole amministrazioni che devono comunicare anche su questi sistemi innovativi. Esatto. Esatto, l'esempio della provincia di Firenze è molto interessante, perché è stato pianificato e organizzato, e come abbiamo visto il supervisore della provincia di Firenze sta integrando 14 diversi sottosistemi che sono gestiti da 14 enti diversi con 14 scelte tecnologiche diverse già esistenti e già operanti sul territorio, quindi quelli continuano a operare come prima, ma adesso viene aggiunta una sinergia tra questi diversi sistemi che gli permette di concorrere al raggiungimento dello stesso obiettivo. Quindi diciamo che il cittadino, volente o nolente, anche se se ne accorge più o meno, comunque queste innovazioni tecnologiche già le sta, tra virgolette, subendo nella vita quotidiana. Sì, ne sta subendo e ne sta beneficiando, sta fruendo e beneficiando, ne può beneficiare ancora di più se l'informazione fornita in tempo reale lo raggiunge in modo puntuale e personalizzato, perché allora può adattare le sue abitudini avendo la confidenza che il sistema di controllo del traffico lo sta di fatto aiutando.